got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno, credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buon pomeriggio a tutti da Valentina Furlanetto, ultimo appuntamento con la nostra trasmissione prima dell'estate, durante la quale potrete però risentire le puntate andate in onda durante l'anno. Ospiti abbiamo avuto il ministro Kyenge, Gio Bastiani, Chameli Kalyan, insomma molti ospiti italiani di origine straniera, i nuovi italiani, perché noi pensiamo che come nel film Indovina chi viene a cena di quasi mezzo secolo fa, le tematiche del film, i pregiudizi razziali, l'integrazione fra culture, le coppie miste restano attuali. Pensiamo però che si possono anche superare, come a tavola superiamo a volte certe nostre avversioni. Allora ci mettiamo subito ai fornelli e indovinate chi viene a cena a Radio 24. Il nostro ospite arriva da Treviso ed è Said Chaibi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Said Chaibi è nuovo consigliere comunale nella Treviso post Gentilini, figlio di genitori marocchini, è il primo eletto nelle file delle seconde generazioni di italiani. Quando Giancarlo Gentilini cominciava il suo incarico di sindaco a Treviso, Said aveva poco più di 3 anni, è così Said? Sì, è così. Gentilini è entrato in comune nel 94, è stato sindaco nel 94 e lì ha cominciato il suo percorso politico che è durato quasi 20 anni. Per 20 anni è stato sindaco, infatti quando abbiamo vinto qualche giorno fa è stata dura anche farlo uscire dagli uffici del sindaco, visto che è rimasto barricato dentro per 24 ore. È stato proprio difficile stanarlo, sia metaforicamente quindi che letteralmente. Treviso è una città ricca, simbolo per Le Monde nel 2008, anche dell'integrazione delle persone straniere. Per molti, e anche per le cronache degli ultimi anni, è stata insomma in prima pagina per le buttate del sindaco Gentilini, per delle spinte razziste difficilmente tenute assieme, insomma, però siamo all'alba di un cambiamento. Abbiamo preso spunto dalle recenti elezioni e quindi da questo cambiamento epocale di Treviso per parlare di come sta cambiando l'Italia. Sentiamo allora un audio che ci riporta proprio indietro di 20 anni. È il 5 dicembre 1994 quando Gentilini varca da sindaco la porta del Bassanello. Ad attenderlo ci sono tutti i suoi accoliti che non aspettano altro che brindare con lui che ha appena sconfitto il rivale Aldo Tognana, rimontandogli oltre 8 punti percentuali dal primo turno. La Lega Nord, seppure con una lista civica in cassa, è il primo comune d'Italia. La sua guida della città stravolge le abitudini dei trevigiani e nel giro di qualche mese diventa lo sceriffo. Ma è a ottobre del 97 che avviene la svolta che segnerà per sempre la carriera amministrativa dell'ex avvocato di Fondazione Cassamarca. Gentilini, durante una passeggiata domenicale ai giardini, nota dei panni stesi all'aria aperta e delle persone di colore sedute sulle panchine. Il suo primo diktat è questione di ore e nel giro di un paio di giorni fa segare le 8 panchine che si trovano a 2 passi dalla stazione ferroviaria. È l'inizio delle proteste. Come hai vissuto questi 20 anni dell'epoca Gentilini a Treviso? Ho iniziato iniziato a rendermi conto poi di che cosa era l'immagine di Gentilini, che cos'era l'immagine dello sceriffo e la ricaduta culturale, solo quando sono diventato adolescente a circa 14 anni. È stata dura non solo per me, ma è stata dura anche per i miei genitori. È stata dura per i miei genitori perché non capivano questa schizofrenia trevigiana, in cui da una parte c'era Gentilini che voleva vestire gli immigrati da letrotti per cacciarli o fare la pulizia etnica degli omosessuali, e dall'altra parte invece si trovavano invece in una situazione in cui la società trevigiana comunque vantava il maggior numero di associazioni a livello regionale e soprattutto associazioni di volontariato nei confronti degli immigrati e delle persone con problemi, per cui sin dal loro arrivo hanno trovato una mano da un punto di vista della società civile. Quello il sindaco sceriffo ti ha proiettato a livello internazionale. Treviso era conosciuta perché c'era questo pazzo, fra virgolette, che andava in giro a dire queste cose. Il dramma è che non c'era nessun altro a fermarlo, a bloccarlo. Questo è stato un errore, credendo che questa cosa fosse, come dire, una buttad, punto. Era peggio, era una costruzione di un immaginario differente, era una costruzione di immaginario d'odio. Oggi noi viviamo realmente la crisi economica dal 2008, ma anche prima non è che questo territorio fosse era il più ricco, ma c'era una forbice sociale molto molto divaricata. Da una parte c'erano le grandi famiglie trevigiane molto ricche e dall'altra invece gli operai. E gli operai, oggettivamente, vedersi poi gli immigrati arrivare, anziché costruire assieme un percorso di come migliorare la propria condizione, hanno iniziato a fare la guerra tra l'ultimo e il penultimo. Il Veneto, in effetti, è una delle regioni d'Italia a più alta densità di immigrazione. Si parla di oltre 500.000 persone immigrate su una popolazione di quasi 5 milioni di abitanti. La presenza dei bambini stranieri nelle classi di alcune scuole trevigiane e vicentine già qualche anno fa superava il 50%. Eppure veniva citata anche, e c'era stato molto stupore qualche anno fa per una ricerca della Caritas Migrantes che parlava di forte integrazione degli immigrati, forse un'integrazione data anche dal pragmatismo, no? Tu sottolineavi il fatto che questo mito del nord-est come realtà ricca sta un po' tramontando, e i dati ti danno ragione anche in questo caso, perché Treviso, dai dati di aprile 2013, risulta essere la provincia più cassa integrata d'Italia dopo Torino e Milano. Quindi spaventoso il livello di crisi che sta attraversando un territorio che ha vissuto negli ultimi anni una crescita esponenziale. Assolutamente. Partiamo dalla questione della Caritas. Qui dal 2009 sono venuti fuori, appunto, con i Migrantes, tutta una serie di analisi sul territorio trevigiano nello specifico, e nel territorio trevigiano risultava esserci il maggior coefficiente di integrazione. Il punto è che è stato fatto un piccolo errore nell'analisi di tutto questo, perché si teneva da parte solo la condizione economica, ossia quanto poi questi immigrati reinvestono nel territorio acquistando case, acquistando beni mobili, eccetera, eccetera, non tenendo conto però di tutta un'altra parte che era l'aspetto sociale. Qui negli anni passati si sono creati dei veri e propri ghetti nascosti in periferia, impossibili da raggiungere. Non si è mai costruito un percorso della cittadinanza per integrare questi soggetti, e questo poi si è risentito a livello poi della città, dell'immaginario della cittadinanza, e questo è stato evidenziato poi, no, e amplificato nel momento della crisi economica. Come diceva lei, adesso Treviso è diventata la città con più cassi integrati, e purtroppo questo è vero nel momento in cui si costruiscono solo piccole botteghine che non sono in grado di essere competitive, e non sono in grado di essere competitive perché i mostri della finanza o i grandi colossi dell'economia in questo momento mangiano i piccoli di fatto. Quindi qui ci sono tantissime aziende a conduzione familiare piuttosto che con pochissimi dipendenti, anche perché qui c'è la paura di superare i 14 dipendenti sull'articolo 18, ci sono tutta una serie di questioni, per cui è sempre stato problematico relazionarsi al mondo del lavoro attraverso i sindacati. Credo che la città e tutti i cittadini poi di Treviso abbiano preso anche coscienza di questo, che non sono più disposti a relegare in un angolino la loro questione dei diritti, perché qui lavorare tasar, che vuol dire lavorare e stare zitti, era proprio una frase dominante su cui si è costruito un modello culturale. Però Gentilini ha avuto comunque il 44%, il che rappresenta abbastanza un mistero. Ha avuto comunque il 44% al ballottaggio, che poi in proporzione è il 24 del primo turno, perché qui c'è una questione anagrafica. Il 30% degli elettori di Treviso sono over 60 anni, cioè c'è questa differenza. Quindi diciamo gli elettori più avanti negli anni a Treviso hanno continuato a votare Gentilini. Ti farei sentire e farei sentire agli ascoltatori un trailer di un film di qualche anno fa che si intitolava Cose dell'altro mondo. Sentiamo, ed era ambientato proprio a Treviso. Cari ascoltatori, eccoci qua. Vorrei ricordare che un futuro va dato a chi viene qua per lavorare. Conviviamo con i fondamentalisti islamici, coi fancazzisti albanesi, coi zingari. Prendete il cammello e tornate a casa! Apocalypse Now! Dim? Mariola, posti il casino. I centralini del comune sono stati subissati di telefonate sin dalle prime ore di questo mattino. Siamo in guerra, non ha sentito! Molti bar e ristoranti chiudono per assenza di personale. Volevo chiederle. No, neanche per lei, guarda, la faccio la badante io. Sono il figlio della signora Verderame. Primo piano, vero? Pronto? Tu che ne sai? Cosa so di cosa? Ma ti pagano per fare il poliziotto, no? Dove sono finiti tutti? Noi siamo soltanto noi altri. Propi in quante fine mondi, nell'indifferenza generale, quanti profeti patentati, il giorno del giudizio universale, e si avvicina la fine del mondo, come la credenza medievale, quante bombe atomiche nascoste da un telegiornale, temporali arrivano, terremoti che alzano la marea. Adesso mi sero gli occhi, quando li riapro, falli tornare in rio tutti. Cose dell'altro mondo. E insomma, questo era appunto un film di qualche anno fa con protagonista Diego Abbatantuono, che faceva la parte di un imprenditore veneto che dalla sua televisione privata lanciava appelli contro l'invasione, tra virgolette, degli stranieri, ma poi quando questi stranieri non andavano più in fabbrica a lavorare, insomma, era abbastanza disperato, come abbiamo sentito. Said, tra l'altro c'erano state delle polemiche, non so se tu le avevi seguite, per le scene che il regista stava girando in città, poi il sindaco Gobbo, che era diciamo una controfigura di Gentilini, ha mandato la truppa a Bassano del Grappa, no? Perché l'immagine che il film dava della città non rappresentava correttamente, secondo lui. Io la polemica l'avevo seguita anche perché dentro a quel film mi avevano chiesto se facevo la comparsa, perché attraverso le associazioni di migranti e tutto si era costruita una rete per essere partecipi poi anche nel girare determinate scene. È stato fatto perché era un messaggio importante, anche se una commedia, le commedie mettono l'accento su determinate cose che non funzionano. Qui a Treviso vive perché ci sono i migranti, Treviso vive perché ci sono le badanti, Treviso vive perché ci sono i neturbini. Oggi c'è la possibilità di costruire un'altra idea di immigrazione, di contaminazione, usiamo anche la parola integrazione, anche se non sempre è una parola che va usata in merito alla questione, perché credo che ci siano degli elementi su cui ci sia poco da integrare, ma ci sia piuttosto da contaminarsi reciprocamente per poter costruire un futuro per tutti, perché questa è la realtà, il dato di fatto nel 2013 durante una crisi economica. Quindi contaminazione piuttosto che integrazione, contaminazione che spesso avviene anche in cucina. A questo proposito, Said, che cosa ci cucini oggi? Allora, oggi vi cucino un bel risotto con il radicchio allo zafferano marocchino. È un piatto che cucini tu personalmente o che hai imparato a cucinare dalla mamma? No, allora, il risotto ovviamente l'ho imparato a cucinare dalla mamma e poi la piccola variante con lo zafferano l'ho fatta perché una sera con la mia ragazza mi ha detto: ma cavoli, sei pieno di spezie, proviamole. Allora abbiamo provato questo zafferano puro che mi aveva appena mandato la zia dal Marocco e ho detto: dai, proviamo a metterlo nel risotto. E ha funzionato benissimo, molto molto buono. Benissimo, quindi abbiamo un risotto al radicchio trevigiano tardivo con zafferano marocchino. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. E non pensavo che finisse così. Dal giorno in cui ho messo piede qui. Sto lottando e non mangio, se abbasso il mio sguardo, la mia pelle mi ricorda chi sono, un bastardo con qualcosa di nuovo. Sto lottando e questo affanno mi dà la forza per farlo. La mia pelle è del colore della terra e cambia quando è sotto il sole come inchiostro su un'agenda. Quando scrivo queste frasi è come terapia, un uomo che si sente libero scrivendo. Italiani e stranieri tutti extra e tutti veri, dice uno dei testi che stiamo ascoltando della musica hip hop degli Extra, un gruppo formato da ragazzi di Torino che provengono da diversi paesi fra cui Congo, Senegal e Marocco, e sono stati ospiti anche in trasmissione. Said Chaibi, consigliere comunale a Treviso, città che ha vissuto una rivoluzione proprio nelle ultime settimane, da il sindaco Gentilini che ha regnato sulla città per un ventennio e veniva chiamato sceriffo, a questa nuova ondata di centrosinistra di cui fanno parte non soltanto lei ma anche un'altra giovane di origine straniera, no? Una donna in questo caso. Realmente noi porteremo in consiglio comunale una nuova idea di città e voglio evidenziare una questione, visto che negli ultimi periodi sono stato attaccato su questo come se fossi la rappresentanza di un mondo a sé, il mondo degli islamici eccetera eccetera. Io sono stato votato da dei cittadini italiani e realmente sarà emozionante entrare in consiglio comunale e con accanto a me la Pritti per poter dire: cavoli, possiamo cambiare questa città e la possiamo cambiare in meglio. Il cambiamento oggi ci mette nella condizione di poterle dare un futuro a questa città, un futuro in Europa, nel mondo e soprattutto in Italia, perché alle volte sembrava che Treviso fosse un paesetto a sé. Lei ha ricevuto un po' anche degli insulti però in campagna elettorale, no? Di tutto, la Lega Nord ha fatto fare 160.000 volantini contro di me, cioè, parafrasando poi un mio intervento su Facebook, un mio post contro la pena di morte incitata da Giancarlo Gentilini sulla questione del picconatore di Milano, Cabobo. Quando la gente si è trovata nella cassetta delle lettere questo messaggio, ha detto: ok, bisogna cambiare perché questo linguaggio non lo possiamo accettare neanche più noi, non lo si può più accettare neanche come centrodestra. Addirittura in questi ultimi giorni c'è un riposizionamento da parte sia del governatore Zaia, che dopo 20 anni finalmente riesce, sì, a dire, infatti, che la xenofobia... Non ti voglio interrompere, però abbiamo proprio un audio del governatore Zaia che risale al 2011, 2 anni fa. La storia ci insegna, e a livello europeo ricordiamo che solo la Francia ha questo atteggiamento, che il grande rischio è quello di perdere l'identità, ma peggio ancora di avere dei cittadini che non conoscono la storia dei nostri territori e non parlano addirittura la nostra lingua. Ecco, questo diceva, erano le preoccupazioni del presidente della Regione Veneto Luca Zaia appena 2 anni fa. Invece ieri ha dichiarato: gli stranieri spesso parlano il dialetto quasi meglio di me, sono bambini che in molti casi hanno identità veneta e non quella del paese d'origine della loro famiglia. Ha precisato di parlare a titolo personale, aggiungendo però che la Lega difende le istanze della sua gente e anche questa è un'istanza del territorio. Insomma, un'inversione a U. Guardi, questa è la schizofrenia della politica, no? Per 20 anni invece si sono affidati al mandiamoli tutti a casa, aiutiamoli a casa loro, chiudiamo le frontiere, spariamo ai barconi e tutte queste cose. Mi rasserena comunque che il governatore della mia regione finalmente riesca a spostarsi da una posizione medievale di fatto e riuscire a dire: giustamente anche, che è la realtà. I bambini nati qui oggi parlano il dialetto trevigiano, io parlo il dialetto. E credo che sia importante un messaggio lanciato a questo tipo. Vuol dire che anche un soggetto politico che in questi anni si è soffermato solo ed esclusivamente sulla questione della xenofobia e del razzismo per acquisire consenso elettorale, in questo momento invece si stia rimettendo in discussione. L'unica cosa è che spiace ricevere questi messaggi positivi vent'anni dopo aver costruito una cultura xenofoba e razzista, perché noi abbiamo fatto la rivoluzione da un punto di vista elettorale. Ora però bisognerà costruire una nuova idea di società e di civiltà. Beh, magari è servito anche il fatto che sia stata nominata ministro la signora Chieng, che tra l'altro ha ottenuto un grande successo sabato scorso nel Consiglio dei Ministri con questa velocizzazione delle procedure per la cittadinanza per i ragazzi di seconda generazione come lei, no? Ho parlato con un ragazzo poco tempo fa, originario del Burkina Faso ma da 20 anni in Italia. Lui aveva tutti i certificati delle scuole frequentate in Italia e per lo Stato italiano, però, poiché la sua famiglia viveva purtroppo con un affitto in nero, lui faceva il pendolare tutte le mattine dal Burkina Faso all'Italia, per dire, no? Questo risultava alla legge italiana. Adesso con queste nuove procedure almeno probabilmente sarà più facile per questi cittadini italiani agli effetti essere riconosciuti come italiani. Ma torniamo adesso a parlare del tuo risotto al radicchio trevigiano e zafferano marocchino. A casa che cosa cucinate? Italiano o marocchino? Per una questione di tempi noi cuciniamo sempre cibo italiano. Quando invece abbiamo un po' di tempo, magari la domenica, il sabato, riusciamo invece a cucinare qualcosa di un po' più particolare, un po' più articolato, visto che ci vogliono veramente delle ore per cucinare dei piatti tipici. Il couscous, vi faccio solo un esempio, ci vuole veramente tanto per cucinarlo nella maniera tradizionale. Senti, i tuoi genitori quando sono arrivati in Italia? Mio padre è arrivato negli anni 70, dopo aver girato un bel pezzo di Europa, sia del sud che del nord. E mia madre invece è arrivata nell'88, 2 anni dopo sono nato io, e poi ci siamo trasferiti qui a Treviso. E da quale parte del Marocco arrivano i tuoi genitori? Allora, mio padre proviene da Casablanca, mia mamma invece proviene dalla bellissima Marrakesh. Ed è un posto dove tu torni, hai occasione di tornare, parli arabo. Io parlo un po' di marocchino con l'accento trevigiano, per cui fa abbastanza ridere. Ci sono stato nel 2011 in Marocco, non ci vado spesso, ci vado una volta ogni 6-7 anni. Ho sentito la necessità poi andarci nel 2011 dopo la questione della primavera araba. È stata una bella esperienza, per una volta non sono sceso giù dentro la campana della mia famiglia, protetto da tutto, ma mi sono vissuto il Marocco nelle sue contraddizioni. Senti, tu non so se conosci il film dal quale noi prendiamo spunto, Indovina chi viene a cena, ormai è un film antico, non vecchio, è un film in bianco e nero di quasi mezzo secolo fa, che raccontava una situazione negli Stati Uniti in cui una coppia progressista si vede arrivare a casa la figlia bianca con il ragazzo nero. E in questo caso c'erano delle difficoltà, degli imbarazzi, no? Ti è mai capitato, ad esempio tu citavi il rapporto con la tua ragazza, io non so se è una ragazza di origine straniera o italiana, però ti è mai capitato? Personalmente non mi è mai capitato. Italianissima, dicevi, quindi quando sei stato presentato ai suoceri com'è andata? Tranquilla, forse ero un po' più in soggezione, ma è stata una cosa normale. Io personalmente non ho mai vissuto questo discrimine, ad esempio però conosco altri ragazzi di origine straniera o altre mie amiche o amici che erano italiani che hanno portato a casa il moroso di origine straniera, e so che i genitori erano un po' rigidi su questo, addirittura ci sono amici che non potevano vedere la propria ragazza perché i genitori erano contrari, e questo bisogna sconfiggere, questa cultura qui. Io non voglio giudicare le persone sulle loro origini, ma su quello che fanno, su quello che sono. Risotto radicchio tardivo di Treviso e zafferano. Ingredienti per 4 persone. 400 g di radicchio rosso tardivo di Treviso. 320 g di riso carnaroli. 2 bustine di zafferano. Olio extravergine d'oliva. Un bicchiere di vino bianco secco. Brodo di verdure, una cipolla, sale, pepe nero. 80 g di parmigiano reggiano. Lavare il radicchio e tagliarlo a striscioline. Mettete in una padella un po' d'olio e cipolla. Fate rosolare il radicchio, aggiungete un pizzico di sale e sfumate con il vino bianco. A questo punto aggiungete il riso e lentamente portate a cottura, aggiungendo il brodo un po' per volta. Quando il riso è arrivato a cottura, si aggiunge una noce di burro e del parmigiano. Appena tolto dal fuoco, si mette lo zafferano e si mescola bene il tutto. Mantecare con il parmigiano reggiano grattugiato, servire subito ben caldo. La puntata di oggi termina qui. Io ringrazio il nostro ospite per essere stato oggi pomeriggio con noi, Said Chaibi, che lo ricordiamo in Consiglio Comunale a Treviso. Grazie, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a tutti e buona giornata. Grazie a Peter Bescapè in regia. Mi trovate anche su Twitter @valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate, i gusti cambiano. You've got to give a little, that's the glory of love.